Chi è come il sapiente? Chi conosce l'interpretazione delle cose? La sapienza dell'uomo illumina il suo volto, mentre l'ira lo sfigura. Obbedisci alla parola del re, specialmente per il giuramento fatto a Dio. Non allontanarti in fretta dal suo cospetto. Non persistere in una opinione che a lui non piaccia, perché egli può fare tutto ciò che vuole. Infatti la parola del re è sovrana. E chi gli può chiedere che cosa fai? Ma chi sta agli ordini non incappa in alcun guaio. La mente del sapiente sa che c'è tempo e giudizio, perché per ogni cosa c'è tempo e giudizio, per quanto un male gravi sull'uomo. Non si sa quale sarà il futuro. Chi può dire, infatti, come andranno le cose? Nessuno è capace di dominare il suo spirito vitale. Il giorno della morte è fuori del nostro dominio. Nella battaglia della vita nessuno scampa, nemmeno il male salva chi lo commette. Tutto questo ho visto e ho riflettuto su ogni cosa che si fa sotto il sole quando un uomo domina su un altro uomo per fargli del male. E così ho visto malvagi portati al sepolcro. Procedevano dal luogo santo sicuri di sé. Erano dimenticati nella città in cui si comportavano così. Anche questo è vanità, perché non si fa subito giudizio dell'opera del malvagio. Così il cuore dell'uomo è pronto a fare il male, perché il peccatore fa il male 100 volte e allunga la sua vita. Così ho capito anche questo, che avrà bene chi teme Dio proprio perché lo teme, e che non va bene al malvagio e non può allungare la sua vita come un'ombra perché egli non teme Dio. E c'è ancora un'altra vanità che capita sulla terra. Ci sono giusti ai quali capita secondo la condotta dei malvagi, e ci sono malvagi ai quali capita secondo la condotta dei giusti. Ho pensato che anche questo è vanità. E allora ho esaltato l'allegria, perché per l'uomo non c'è altro bene sotto il sole se non mangiare, bere e stare allegro. È questa la sola cosa che gli faccia buona compagnia nella sua fatica, nei giorni contati di sua vita che Dio gli ha dato sotto il sole. E come mi son dato a riflettere sulla sapienza e a considerare il lavoro che si fa sulla terra per cui l'uomo non vede riposo né di giorno né di notte, ho considerato l'insieme dell'opera di Dio, rendendomi conto che l'uomo non può arrivare a scoprire tutto quello che avviene sotto il sole, perché non trova niente per quanto si affatichi a cercare. E anche se il sapiente dice di sapere, il sapiente non trova nulla.